Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a voi tutti. Molti di voi avranno sentito parlare di prezzi biorari e per la verità qualcuno all'annuncio di questa novità in arrivo si è anche un po' spaventato. Allora, avrete capito che oggi si torna a parlare di bollette, in particolare delle bollette della luce e di elettricità. Ve ne abbiamo già parlato in occasione di un'altra puntata. A luglio, secondo quanto ha stabilito l'autorità del gas e dell'energia, entreranno in vigore i nuovi prezzi biorari, tariffe cioè differenziate a seconda delle diverse ore della giornata e dei giorni della settimana. Le società che distribuiscono energia stanno già ottemperando alla richiesta dell'autorità di inviare le comunicazioni su questo alla clientela sull'arrivo delle nuove tariffe. Enel, per esempio, ha già inviato la comunicazione a 10 milioni di clienti, ma a molti di questi non è chiaro cosa accadrà e si chiedono di cosa si tratta, come saranno ripartiti i miei consumi o come sono attualmente ripartiti in modo tale da poter capire quale sarà l'impatto di questa introduzione sulla mia bolletta. Significa che dovrò fare la lavatrice solo di notte, arriverà una stangata in bolletta, arriveranno i tecnici a riprogrammare il contatore? E allora a tutte le domande di questo tipo stamattina risponderemo anche noi di Salva Danaio con Roberto Malaman, direttore generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Dottor Malaman, buongiorno e bentornato a Radio 24. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. E ben trovato anche a Luigi Borrelli, responsabile Customer Service di Enel. Dottor Borrelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, il numero verde per le vostre domande, se già ne state facendo al vostro fornitore di energia, se vi è già arrivata la comunicazione, non avete capito di che cosa si tratta e magari avete già chiamato per chiedere informazioni direttamente all'azienda, potete, e magari non siete stati soddisfatti dalla risposta ottenuta, potete chiamarci, noi continueremo ancora a chiarirvi le idee se sarà necessario per capire qual è la portata di questa novità così importante a partire da luglio. 800 24 00 24, vi ho ancora appunto ricordato il numero verde per i vostri intervententi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Oggi naturalmente merita come sempre il consueto commento anche la giornata di borsa. Ieri giornata negativa, poi stamattina partenza buona per gli indici europei, adesso di nuovo calo non dappertutto. Londra mantiene il rialzo dello 0,22%, mentre Parigi e Francoforte sono in ribasso dello 0,2%, anche Milano perde lo 0,27%. Tanti i temi su cui oggi si concentrano le attenzioni degli investitori. Abbiamo intanto il calo della fiducia dei consumatori in Germania, un dato che sembra essere stato un po' peggiore delle attese. Già ieri era arrivato il dato negativo sulla fiducia delle imprese e quindi la Germania un po' in ansia in questi giorni, anche perché insomma c'è anche quest'altro problema, e cioè sembra che la Germania dovrà farsi capofila in questo progetto di coordinamento per il salvataggio della Grecia. Non se ne sa ancora molto, ma il governo smentisce, ma in ogni caso alla Germania si guarda anche per questi in questi giorni. Sul salvataggio della Grecia ovviamente guardano anche al salvataggio della Grecia anche gli operatori sul mercato valutario, che sulla scia di questa prospettiva stanno continuando a vendere euro a favore del dollaro. Stamattina abbiamo un rapporto di cambio a 1,3540. Milano STM più 1,38, Mediolanum più 1,35, Tenaris più 1,25, ma naturalmente tutti sono molto attenti a su quanto sta accadendo a Telecom e a Fastweb dopo la bufera giudiziaria che ha investito travolto le due società da ieri. Telecom meno 1,29 anche oggi. Fastweb per la verità ieri ha perso 1,5 punti. Stamattina era partito il titolo con un ribasso di altri 7-8 punti, poi ha recuperato rapidamente terreno, è risalito la china e adesso andiamo a vedere Fastweb come si sta comportando in borsa. Sta perdendo 1,5 punti, quindi ha recuperato. Allora, noi di Salva Danaio ci siamo interrogati se dedicare una puntata del nostro contenitore a questo argomento, cioè come queste vicende giudiziarie stanno ripercuotendosi sui titoli, li abbiamo visto, ma anche banalmente i clienti di Fastweb, qualora la società dovesse essere commissariata, non se ne sa ancora niente, ma se succedesse cosa succede anche ai clienti delle utenze internet, delle utenze televisive, delle utenze telefoniche? E allora su questo ci focalizzeremo domani a Salva Danaio. Dateci il tempo di predisporre al meglio la puntata, alla luce anche delle novità che si apprenderanno oggi, per cui rimandiamo questo tema a domani. Oggi invece ci occupiamo di tariffe biorarie a partire da luglio. Gentile cliente, tra circa 6 mesi alla sua bolletta energetica verranno applicati i prezzi biorari. Suona più o meno così la lettera che milioni di utenti si sono visti recapitare nei mesi scorsi. Ma non si tratta dell'ultima trovata pubblicitaria o del lancio di una nuova offerta. Secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, infatti, a partire da luglio 2010 entrerà progressivamente in vigore la cosiddetta tariffa bioraria. Saranno coinvolti tutti i consumatori che non hanno aderito alle offerte del mercato libero e sono dotati dei nuovi contatori elettronici, cioè in grado di misurare i consumi nelle diverse fasce, e che intendono continuare ad utilizzare i prezzi di riferimento fissati dall'autorità. In particolare, con le tariffe biorarie, l'energia elettrica costerà di meno dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e il sabato, la domenica, le giornate festive, mentre i prezzi saranno più elevati dalle 8 alle 19 dei giorni feriali. E non dico che siano gran parte di quei 10 milioni che hanno già ricevuto la comunicazione di Enel, ma molta parte di questi ci sta già chiamando all'800240024, ci sta già scrivendo al 349-238-6666. Comincio subito con l'ABC di questa novità con il dottor Malaman dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas. Dottor Malaman, leggendole subito un messaggio di un ascoltatore, Amos da Mirandola, che dice: ma io non capisco la novità, è da 2 anni che ho già la tariffa bioraria di Enel, che cosa cambia? E allora, vogliamo spiegare il carattere di, tra virgolette, obbligatorietà che le nuove tariffe avranno a partire da luglio? Qual è la ratio di questa novità che per qualcuno ha anche una portata davvero rivoluzionaria? Sì, la vera novità, l'avete detto chiaramente voi nel servizio introduttivo, è il fatto che progressivamente dall'inizio di luglio i consumatori domestici di energia elettrica avranno assegnata d'ufficio una tariffa bioraria. Quindi il signore che vi ha telefonato probabilmente, come ha dichiarato, ha una tariffa bioraria, vuol dire che questa se l'è scelta. Da luglio in avanti gli italiani nel cosiddetto servizio di maggiore tutela avranno prezzi biorari, cioè tutti gli italiani che non scelgono un fornitore di energia elettrica sul mercato libero avranno prezzi biorari. Allora, qual è la definizione di prezzo biorario, dottor Malaman? Prezzo biorario, molto semplicemente, vuol dire che si pagherà un po' di più l'energia elettrica nei giorni feriali dalle 8 di mattina alle 19. Si pagherà di meno nelle altre ore e in tutti i festivi. È un'ascoltatrice o un ascoltatore, non so quale genere abbia la persona che ci scrive, ma dice: bene sì, potremo fare la lavatrice solo di notte, con buona pace per la quiete condominiale, questa tariffa bioraria è una prepotenza. Le chiedo subito, dottor Malaman, se uno non volesse aderire alla tariffa bioraria, potrà farlo da luglio? Sì, certamente, però prima vorrei commentare la prepotenza. È fino ad oggi che i prezzi erano sbagliati, cioè fino ad oggi si comprava allo stesso prezzo di giorno e di notte un bene che in realtà costa molto di più prodotto di giorno. Sarebbe come se pagassimo le telefonate urbane e interurbane allo stesso modo, sarebbe come se pagassimo i pomodori lo stesso prezzo d'estate e d'inverno. Ecco, finora abbiamo pagato così l'energia elettrica, quindi semplicemente andiamo a far pagare dei prezzi più giusti a chi consuma energia elettrica. Ecco, questo è quanto sta andando a succedere. E qualche volta forse può anche infastidire il fatto che magari dovremmo mettere un po' più attenzione nel nostro consumo quotidiano di energia, quindi fare un po' più di attenzione anche a quelle che sono le nostre fasce orarie di maggior consumo e quindi magari attivamente cercare di capire se effettivamente per noi, non è detto che sarà così per tutti, l'applicazione della tariffa bioraria sarà conveniente o meno. Dobbiamo adesso spiegare tra l'altro come le società che erogano energia rimoduleranno il funzionamento dei contatori, perché ci sono delle novità anche da questo punto di vista. Allora qui comincio subito a coinvolgere anche l'Enel. Luigi Borrelli, responsabile Customer Service: 10 milioni di comunicazioni già inviate alla vostra clientela, ma i clienti di Enel sono molti di più. Chi sono questi primi 10 milioni scelti in qualche maniera, dottor Borrelli? Questi primi clienti, 10 milioni appunto, sono clienti che hanno avuto un'azione sul contatore elettronico che noi abbiamo già installato in casa dei nostri clienti negli anni scorsi, e hanno avuto una riprogrammazione fatta in remoto, quindi a distanza rispetto al contatore, sono stati portati da una misura che era solo monoraria a una misura che è trioraria. E questo è stato fatto nell'anno scorso, e quindi con la bollettazione di gennaio e febbraio a questi clienti abbiamo potuto mandare un primo avviso importante che anticipa questa nuova regolamentazione, e così faremo man mano che proseguiremo con la riprogrammazione dei nostri contatori. Quindi entro luglio le lettere saranno diffuse a tutti i 22 milioni di vostri clienti? Entro luglio le lettere saranno diffuse a tutti i nostri clienti con una modalità multipla, nel senso che noi adesso abbiamo inviato una prima comunicazione, questa comunicazione ne seguiranno altre due per ogni cliente, in modo da dare tutta l'evidenza e l'importanza di questo grande cambiamento, e solo dopo che il cliente avrà ricevuto queste tre comunicazioni sarà attivata la tariffa così come definito dall'autorità. Certo, tanto per essere ancora precisi, mi scusi se la interrompo, dottor Borrelli, ritorno per un attimo all'autorità. Dottor Malaman, non è che Enel una mattina si è svegliata e dice per fare la bella io mando questa comunicazione per arrivare prima rispetto ad altri. La società, così come faranno tutte le altre, sta ottemperando ad una precisa richiesta dell'autorità di informativa alla clientela. Sì, certamente, visto che quella di cui stiamo discutendo è effettivamente una novità, abbiamo deciso che tutte le famiglie italiane debbano ricevere nei 6 mesi prima dell'ingresso nel nuovo sistema di tariffe biorarie delle comunicazioni in bolletta che gli spiegano cosa sta succedendo. Saranno 3 le comunicazioni, giusto, come diceva Borrelli, da qui a per ogni singola utenza, per ogni singolo cliente. Sì. Saranno 3 e si entrerà in tariffa bioraria se e solo se saranno arrivate le 3 comunicazioni. La terza di queste comunicazioni, anzi pardon, la seconda e la terza, conteranno anche un'informazione in più, diranno già a ogni famiglia quanto sta consumando adesso nelle ore a basso prezzo e nelle ore ad alto prezzo, e quindi gli spiegherà già se devono stare più attenti. Ecco. Cioè si potrà fare addirittura un calcolo presuntivo sulla convenienza o meno dell'applicazione della bioraria? Si capirà subito, guardi, attualmente gli italiani consumano 2/3 dell'energia nelle cosiddette ore piene, 1/3 nelle ore vuote. Si tratta semplicemente di guardare se si è nella media come le altre famiglie italiane. In ogni caso converrà provare a spostare un po' i consumi. In ogni caso il segnale che si vuol dare alle famiglie italiane è di provare a spostare quel po' di consumi elettrici che si possono spostare nelle ore dove l'energia costa meno. Un'ultima cosa al dottor Malaman, poi peraltro ci sono anche degli ascoltatori pronti ad intervenire. Gidio ci chiede se questo varrà anche per le utenze aziendali. Vale già per le aziende? Sì, sostanzialmente le imprese in Italia stanno già pagando da tempo prezzi differenziati sulla base dei costi reali dell'energia, quindi differenziati su base oraria. Quindi probabilmente Gidio dovrebbe informarsi con il proprio, come dire, con la società che eroga l'energia alla sua azienda. Sì, guardi, qui vorrei aggiungere una cosa che è la risposta a un pezzo, a una domanda che lei mi aveva fatto prima. Ah, mi scusi. No, ma sono io che non ho ancora risposto. Queste tariffe sono obbligatorie, la risposta è: queste sono le tariffe del servizio di maggior tutela, cioè di chi non si sceglie un fornitore sul mercato libero. Ci sarà sempre la possibilità, come c'è oggi, di scegliere sul mercato libero dell'energia elettrica una fornitura col prezzo fisso, una fornitura bioraria diversa da quella regolata dall'autorità, oppure una fornitura a tariffa a energia rinnovabile, o una fornitura che garantisce che non cresce il prezzo energia elettrica se cresce il prezzo del petrolio, cioè rimangono valide tutte queste offerte. Ci sono tante altre cose da dire, lei ha giustamente ricordato di quello che è successo a partire dal 1 luglio del 2007, l'applicazione appunto delle nuove tariffe secondo il criterio del mercato libero, per chi non aderisce alla liberalizzazione ovviamente ha invece il servizio di maggior tutela, e a queste famiglie verranno eventualmente applicate le tariffe biorarie. Dobbiamo anche ricordare del periodo transitorio che scatterà dal 1 luglio, come verranno riprogrammati i contatori, quindi se arriveranno i tecnici a casa nostra che dovranno appunto rimodularli, e poi c'è anche l'altro aspetto del calcolo appunto del consumo attraverso le vie telematiche. Oltre che elettronico, il contatore dovrà essere anche telegestito. Fra 6 mesi, gentile cliente, alla sua bolletta dell'energia elettrica saranno applicati nuovi prezzi biorari differenziati a seconda delle diverse ore della giornata e dei giorni della settimana, in attuazione di quanto previsto dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Recita così l'incipit, l'inizio di una lettera che molti di voi staranno ricevendo in questi giorni a casa, e la manda la società che vi vende l'energia, che eroga l'energia, che naturalmente illumina casa vostra. E in sostanza con questa comunicazione le aziende stanno informandoci che da luglio parte questa rivoluzione così importante, secondo la quale a molte famiglie italiane verranno applicate le cosiddette tariffe appunto biorarie, un modo con il quale

le stangate sulla bolletta elettrica possono arrivare e arrivano quando il prezzo del petrolio va alle stelle. E stiamo parlando di leggere modifiche dei prezzi. Per una famiglia, tra virgolette, normale, anche una famiglia con figli, non ci saranno spostamenti significativi dei prezzi. Io ho due figlie, ho una casa per mia fortuna molto abitata e molto vivace, abbiamo già fatto dei conti per divertirci in famiglia. Una famiglia media italiana ha già i consumi che per un terzo stanno in ore piene, per due terzi in ore vuote, troverà dei numeri in bolletta per spiegare. Ogni famiglia troverà dei numeri in bolletta per capire la sua situazione. Poi qualche spostamento dei consumi si può fare, una lavatrice dopo le 19, lo scaldabagno, se è uno scaldabagno elettrico ad accumulo si può tranquillamente accendere qualche ora la sera anziché qualche ora al pomeriggio, quindi qualche spostamento si può fare, ci teniamo. Quindi insomma la ratio è cercare di riorganizzare l'utilizzo dei nostri elettrodomestici per un discorso più complessivo di efficienza energetica. Sì, senza rovinarsi la vita, un po' di attenzione in più aiuta. Aiuta che cosa? Aiuta il paese a non far consumare l'energia elettrica costosissima, non far produrre in quelle ore in cui si accendono delle centrali poco efficienti, magari più inquinanti, molto costose. A questo serve il sistema di cui stiamo parlando. No, poi vorrei dire anche così, anche per tranquillizzare, se questo può servire, che noi siamo qua all'arrivo della seconda comunicazione a tutti i clienti, a tutti gli utenti di questi servizi in Italia. Cercheremo magari anche noi di divertirci, di fare qualche calcolo, di aiutarvi ad orientarvi bene anche in questa novità. Ci sono ancora 4 mesi di tempo, per cui non spaventiamoci, insomma non andiamo sempre a guardare con pregiudizio tutto ciò che arriva sul mercato. Vorrei un attimo sentire Paolo da Palermo, perché ci chiede ancora qualche cosa relativamente alle già vecchie applicazioni di biorarie da parte di alcune aziende. Paolo, mi pare che fosse questa la sua riflessione. Buongiorno, no, il fattore è questo, già hanno risposto alla mia domanda, sì. Perché avevo dei dubbi, perché in quanto nell'ultima bolletta già ho visto che c'è una lettura divisa in 3 fasce orarie, esatto. E mi hanno spiegato ampiamente perché, però nel corso della trasmissione mi sono sorti altri dubbi. Dico, se sarà minimo il divario, insomma, sulle bollette, voglio dire, perché lo si sta applicando, primo. Secondo, il dottor Malaman ha asserito che i prezzi sbagliati sono quelli attuali, che noi stiamo pagando di più, insomma, la corrente elettrica delle fasce notturne. Allora perché non fanno un conteggio e cominciano a rimborsare tutto quello che abbiamo pagato in più, primo. Secondo, un'altra cosa, mi arriva in bolletta un numero telefonico che sarebbe 199 50 50 55, in cui un cliente, io dico un numero, no cliente, dal telefonino può contattare i signori dell'Enel. Da circa 10 giorni questo numero non esiste più. Vorrei anche questa spiegazione, se è possibile. Buongiorno e grazie. Sì, grazie Paolo. Allora, mamma mia, qua da dove partiamo? E allora, Malaman, effettivamente devo dire che la sua prima affermazione, quella abbastanza drastica sul fatto che l'applicazione dei prezzi attuale è sbagliata e quindi dobbiamo andare verso questa trasformazione, ha suscitato un bel po' di considerazioni da parte di molti altri ascoltatori. Allora, vuole fare delle precisazioni su quello che ha detto prima? Sì, confermo quanto detto prima, non è una rivoluzione dei prezzi di giorno e di notte, sono degli aggiustamenti che permettono anche, se si presta attenzione, di risparmiare qualcosa. Complessivamente, ci tengo a chiarirlo, gli italiani pagheranno per energia elettrica complessivamente gli stessi soldi che pagano adesso, o meglio, poi i prezzi dipenderanno molto dal prezzo del petrolio naturalmente, ma l'arrivo della tariffa bioraria non fa di per sé né risparmiare né spendere di più, pagheremo gli stessi soldi, poi dipende dai comportamenti. Relativamente al numero che non risponde, diciamo, no, noi abbiamo costretto le aziende a mettere chiaramente un numero di telefono in tutte le bollette per essere contattate. Ora non conosco il problema specifico, forse bisogna chiedere alla No, chiedo al dottor Borrelli, no, più che altro, ecco, gli ascoltatori si stanno chiedendo, e allora addirittura Paolo avanza l'ipotesi di una restituzione di quanto adesso. Non è che sia stato un maltolto, non è che ci fosse chissà che cosa dietro al meccanismo attuale. Le cose cambiano, anche perché dal punto di vista dell'utilizzo migliore dell'energia ci sono tanti cambiamenti in corso, basti pensare a tutte le volte che discutiamo anche, per esempio, non so, dell'allegare il certificato di riqualificazione energetica energetica delle nostre case, insomma ogni volta tutto viene visto come un balzello aggiuntivo a tanti costi che già sosteniamo, ma tutto questo fa parte di un disegno complessivo, cioè il mondo deve respirare di più e bisogna che l'energia anche la utilizziamo meglio, perché altrimenti stiamo sprecando tanto, però questo richiederebbe davvero una puntata a parte. Dottor Borrelli, sul numero verde di Enel, magari non so, avete già verificato per esempio che in questi giorni i vostri centralini siano particolarmente intasati, proprio perché magari molti stanno chiedendo queste informazioni? Questo sicuramente, noi ci siamo potenziati per poter rispondere in modo adeguato e mantenere i livelli di servizio che solitamente sono molto alti, noi riusciamo a rispondere al di sotto di un minuto del tempo di attesa, solitamente a 95 clienti su 100, che è una media altissima. In questi giorni abbiamo avuto un sovraccarico da 10 milioni di invii, anche con una percentuale di chiamate che noi abbiamo stimato intorno al 20% rispetto a questi invii, ha provocato rispetto alla nostra struttura telefonica un aggravio che pure se ipotizzato ci ha messo un attimo in difficoltà, per cui siamo scesi dal 95% del nostro livello di servizio solido intorno al 90%, però ripeto, sul 90% dei casi riusciamo a rispondere con tranquillità. Chiediamo in questo caso un po' di pazienza ai nostri clienti, che casomai di provare in orari un po' più tranquilli. Il servizio è attivo ed è, ripeto, stato potenziato pure per l'occasione. Volevo tra l'altro ricordare, poi magari con il dottor Malaman lo facciamo, che c'è anche lo sportello consumatore che è stato attivato dall'autorità per energia elettrica, si può anche in questa sede chiedere tutte le informazioni sull'arrivo della bioraria. Ricordo anche il numero verde appunto dello sportello per il consumatore, che è quello dell'autorità, è l'800 166 654. Il nostro invece è sempre l'800 24 0024. Sono pronte anche Maria Antonia da Reggio Emilia, Alessandro da Milano, adesso sento anche loro, e poi vorrei leggere questa mail di Roberto da Vittorio Veneto, che giustamente, legittimamente si chiede: siccome ci sarà teoricamente anche una concentrazione di consumi nelle ore serali, è prevista anche in queste ore un aumento della potenza di energia disponibile. Volevo ritornare al dottor Borrelli di Enel. Come si sta procedendo o si procederà alla riprogrammazione dei contatori? Cioè che cosa deve essere fatto al nostro contatore per appunto poi verificare l'applicazione delle tariffe biorarie? Dottor Borrelli. Un'operazione che facciamo dai nostri uffici, dalle nostre unità, tutte a distanza rispetto al contatore, quindi assolutamente non invasiva per i nostri clienti, andiamo a riprogrammare con le operazioni che citavo pure lei prima, che noi chiamiamo telegestione, quindi andiamo a modificare la modalità di memorizzazione delle misure nel contatore andando a riprogrammarle per fasce diverse. Questo lo stiamo già facendo e il cliente, ripeto, in modalità del tutto trasparente si ritroverà questo servizio attuato e lo scoprirà ricevendo la lettera che abbiamo citato prima, piuttosto che leggendo sulla bolletta i consumi differenziati per i contatori elettronici. Sono già arrivati in tutte le case, dottor Borrelli? Non credo, però. I contatori elettronici sono arrivati nella quasi totalità delle nostre famiglie. Per quanto riguarda il segmento del domestico, noi abbiamo ancora solo 500.000 clienti su cui installare questo contatore elettronico, dove abbiamo provato, saranno persone che lavorano all'estero, piuttosto che comunque siti irraggiungibili per quanto ci riguarda, su una base di clienti che è di oltre i 24 milioni di clienti residenziali, quindi ormai siamo veramente a numeri infinitesimali. Dottor Malaman, allora abbiamo sentito sull'arrivo delle biorarie, ci sono tante domande, tante perplessità, tanta curiosità, in ogni caso definiamola così, ammettendo che nel migliore dei mondi possibili tutti cambino radicalmente le loro abitudini di consumo e da luglio cominciamo ad utilizzare tutti quanti istantaneamente, contestualmente e contemporaneamente la lavatrice dalle 8 di sera fino alle 4 del mattino, ammettendo che il nostro condominio naturalmente ce lo permetta. Scherzi a parte, se dovesse verificarsi effettivamente una richiesta di energia tanto maggiore, cioè avete previsto anche questo, come si chiede legittimamente Roberto da Vittorio Veneto? Sì, noi abbiamo ovviamente lavorato avendo in mente sia le capacità della rete elettrica sia gli impianti domestici. Gli attuali contatori, per almeno il 90% degli italiani, già consentono di consumare non i 3 kW che abbiamo tutti contrattualmente, ma in realtà 4 kW per un periodo abbastanza lungo, se ben ricordo 3 ore. Quindi c'è la tranquilla possibilità per tutti questi clienti, se vogliono spostare una lavatrice dopo le 19, di farlo dopo le 19 e cucirare serenamente e guardare anche la televisione. Certo, allora, anche lì ci vuole un filo di attenzione, naturalmente. Certo, Maria Antonietta, un'imprenditrice, anche in questo caso da Reggio Emilia, un po' preoccupata. Perché Maria Antonia? Buongiorno, Maria Antonia, buongiorno. Non Antonietta, sì. Buongiorno e grazie di avermi chiamato. Ascolti, volevo chiedere al vostro ospite. Ascolti, io ho la lavanderia. Io posso fare il lavoro solo di giorno, da lavare, stirare, così, come devo fare? Certo, lei dice, insomma, come faccio? Mi metto ad aprire l'azienda durante la notte per poter risparmiare. Quindi, in ogni caso, dottor Malaman, qui parliamo di una utenza industriale, piccolina, un'utenza imprenditoriale, chiamiamola così, che giustamente si fa questa domanda. Allora, quali alternative potrebbe prendere in considerazione la nostra Maria Antonia? Chiaro che per non subire l'effetto della via oraria, perché in questo caso è un subire la conseguenza. Dunque, vorrei ripetere che stiamo parlando di un cambiamento dal 1 luglio per le clientela domestica, sì, quindi per le abitazioni. Nel mondo non domestico ci sono già tariffe differenziate tra ore più costose e meno costose, e questo per certi versi è inevitabile. Bisogna muoversi serenamente nel mondo delle offerte sul mercato libero e scegliere la migliore offerta per la propria attività. Qui ci vuole un po' di lavoro, un po' di attenzione, però è come scegliersi il fornitore telefonico, anzi scegliersi il fornitore elettrico, devo dire, un po' più semplice. Perdiamo anche un po' più tempo, per la verità. È come scegliersi il fornitore di detersivo per la signora Maria Antonia, che è una lavanderia, insomma. Quindi il tema è che noi cittadini dobbiamo cominciare. Io capisco tutti quelli che ci chiamano, perché io di fronte alla bolletta della luce e del gas proprio mi arrendo, alzo la bandiera bianca e non ho proprio nessuna voglia di mettermi a studiare il consumo dell'energia che faccio, perché è un tema che proprio non capisco, non recepisco. Il problema invece è che dobbiamo come cittadini cominciare ad informarci attentamente sul nostro utilizzo energetico, dobbiamo conoscere le nostre abitudini un po' meglio e magari avere la pazienza di modificarle un pochino. Però insomma nessuna rivoluzione francese arriverà a luglio, anche se, come dire, l'anniversario cade in quello stesso periodo, quindi il 4 luglio, state tranquilli. Chi sentiamo? Claudio dalla Spezia o Alessandro da Milano? Cominciamo con Claudio dalla Spezia, che ha un impianto fotovoltaico, quindi un po' preoccupato anche lui. Claudio? Sì, buongiorno a tutti. No, preoccupato no, però volevo cercare di capire. Io sì, ho un impianto fotovoltaico da 4 giri o 6. Claudio, può parlare un pochino più piano, perché non la sentiamo, magari staccare un po' la bocca anche dalla cornetta? Sì, va meglio? Sì, proviamo. Ci dica. Io ho un impianto di 4,6 kg e tutto elettrico, perché anche il riscaldamento ho i pannelli solari. Sì. Volevo chiedere, io adesso devo modificare i miei consumi come? Cioè devo guardare il tempo tutte le mattine per cercare di capire se i miei pannelli funzionano oppure no, e quindi... Allora Claudio, guardi, rivolgo subito la domanda all'autorità, ho capito il senso della sua osservazione. Dottor Malaman, avete preso anche in considerazione tutte le utenze che si sono convertite al fotovoltaico negli ultimi anni? Guardi, per loro come cambia la situazione? Certamente, io mi spiace signor Claudio, non ho sentito benissimo. Sì, no, infatti, magari diceva. Chiediamo a Claudio o lo richiamiamo, ci facciamo scrivere, ma ogni tanto sulla base del poco che abbiamo sentito. Ecco, per quello che ho capito posso intanto suggerire comunque di chiamare il nostro sportello del consumatore 800 16 6654. Sì. E invece più in generale, per chi ha un impianto fotovoltaico rimane tutto come prima, salvo che per la parte di energia che non consuma dal suo impianto ma che preleva dalla rete, anche in quel caso ci sono prezzi che andranno a differenziarsi. Mm-hmm. Alessandro da Milano, l'ultimo intervento di oggi, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo fare un po' di sano allarmismo, se mi è consentito, motivato ovviamente ad argomentazioni concrete. Bravo. Io ho ricevuto la comunicazione, sono un utente Enel, sì. Lavoro, per cui dovrei consumare quasi esclusivamente nelle fasce orarie meno costose, sì, da luglio, ho detto meno male. Allora, siccome effettivamente già in questa comunicazione mi hanno mandato i consumi attuali divisi per fasce, spiegando anche che risparmierà, questo così c'è scritto, chi già consuma almeno il 66% nelle fasce 2-3, quindi notturne, festive, vado a vedere e dico, oi boh, ma... più o meno il 50-50, ma com'è possibile? Non ci sono mai a casa. Dopodiché ho riflettuto qual è l'utenza che praticamente incide di più nel mio consumo, il frigorifero, che non certo. posso staccare durante il giorno. Morale, se neanche una tipologia di utenza come la mia può risparmiare, a risparmiare, figuriamoci tutti gli altri. Quindi io prevedo per tutti comunque, non sarà una stangata ma un aumento, perché è quasi impossibile salvo non staccare il frigorifero durante il giorno. Alessandro, io purtroppo non ho più tempo, fra 40 secondi devo chiudere e allora attribuisco una risposta telegrafica sia a Borrelli che a Malaman per concludere. Non ha torto il nostro ascoltatore, è una considerazione molto semplice ma credo che potrebbe essere anche rappresentativa della situazione di molti altri, un po' come la Monica di Viterbo che ci ha chiamato prima. Dottor Borrelli. Sì, nel caso del cliente sicuramente se ha solo il consumo del frigorifero ci avrà questo aggravio, però... E allora ce l'avremo tutti, perché tutti quanti abbiamo il frigorifero, però, che va tutto il giorno. Si tratta di spostare le altre utenze su orari notturni, quindi in questo caso lì dove andiamo a superare la percentuale oltre il 66%, il cliente ne avrà sicuramente un beneficio. Dottor Malaman, chiudo con lei. Volevo dire al signor Claudio di cambiare frigorifero. Prendere una classe perché energetica ha la massima efficienza? Sì, perché normalmente il frigorifero non può essere il suo problema. Normalmente un frigorifero rappresenta, diciamo, un numero 10% dei consumi elettrici. Quindi non il 50%, è impossibile che rappresenti il 50%. E quindi c'è qualcosa di strano. Potrebbero essere decine di apparecchi in stand-by acceso tutto il giorno, potrebbe essere qualche altro apparecchio che gli consuma energia tutto il giorno. Chiarissimo anche lei. Senza che lui se ne accorga. Benissimo, grazie anche per il suggerimento. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ma tanto dovremo tornarci necessariamente su questo tema e prepararci gradualmente a questa novità importante che in ogni caso arriva da luglio, sperando naturalmente di non fare più allarmismi, di tranquillizzare tutti quanti. Se poi qualcosa non dovesse funzionare torneremo anche su quello. Intanto buona giornata a tutti.